Mango Tart legge Mena Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 16. Era la metà di febbraio quando Dolores Umbridge fu uccisa durante il tentato assassinio del ministro della magia. Una statua di Voldemort era stata eretta nella prigione di Hogwarts per commemorare la battaglia finale. La preside Umbridge era in piedi su una pedana accanto al ministro O'Toole, mentre lui teneva un discorso alle guardie della prigione, ai giornalisti e a una manciata di funzionari del ministero presenti. Mentre iniziava il taglio del nastro, il dardo di una balestra uscì dalla foresta proibita. Passò attraverso le mura della prigione, mancò di poco il ministro e si conficcò al centro del petto della direttrice Umbridge. Non morì immediatamente. I frammenti di una collana e l'asta della freccia rallentarono l'emorragia. Le guardie, ignare delle armi medievali spinate e della logica medica di base, avevano strappato via la freccia. Era morta all'istante. L'attentato alla vita del popolare ministro della magia, giunto a 3 mandati, era stato un'onda d'urto nella comunità magica britannica. I terroristi della resistenza erano stati considerati spazzati via. Farli riemergere in modo così spettacolare aveva portato il caos e i mangiamorte, vestiti di tutto punto, avevano marciato. Voldemort aveva preso l'attacco come un insulto personale. Le visite di Montague al Manor cessarono bruscamente. Astoria se ne andava a spasso per il Manor, pallida e paranoica. La sentì chiedere a Malfoy con voce stridula quali tipi di protezione ci fossero esattamente nella tenuta. Malfoy, quando Hermione lo intravedeva, era costantemente vestito con qualcosa che sembrava essere una combinazione di attrezzatura da combattimento e abiti da caccia. Tornava regolarmente al Manor coperto di fango e con l'aria pallida di rabbia. Ne era entusiasta. Leggeva ossessivamente i giornali. Strombazzavano a gran voce che si trattava di un attentato fallito, ma Hermione considerava la morte dell'Umbridge molto più appropriata del bersaglio previsto. O'Toole era poco più di un burattino. Le colpe dell'Umbridge, invece, erano solo sue. Ma la soddisfazione della punizione era insignificante rispetto al sollievo di sapere che la resistenza era ancora viva. Passò mezz'ora a piangere dalla pura gioia. Si ritrovò a sentirsi inaspettatamente speranzosa per la prima volta dopo molto, molto tempo. Questo fatto le conferì un passo leggero per i giorni successivi. Quando la guaritrice Stroud andò a controllarla, la sua irritazione per il fatto che non fosse ancora incinta divenne chiaramente visibile. Lanciò una serie di incantesimi su di lei e li studiò attentamente. «Bene, i tuoi livelli di sodio sembrano migliorare», disse finalmente dopo diversi minuti di silenzio. Hermione fissò l'orologio e non rispose. La guaritrice rovistò in una borsa e tirò fuori un grande flacone di una pozione colore viola. «Bevila tutta», le ordinò. Hermione se lo portò automaticamente alle labbra, anche se sbottò. «Che cos'è?» La guaritrice Stroud aspettò e non rispose finché non ebbe bevuto l'intero flacone. «Una pozione di fertilità. Non dovrebbe essere necessaria, ma sono a corto di idee. Temo che gli effetti collaterali non ti piaceranno e che aumenterà la probabilità di nascite multiple». Hermione sentì il sangue defluire dal suo viso e sentì come se potesse cadere dal lettino. Il flacone le scivolò di mano e andò in frantumi. La guaritrice Stroud li fece prontamente vanescere. «Aspettati gonfiore e sensibilità del seno, mal di testa, sbalzi d'umore e gonfiore nel basso ventre. Può anche provocare sensibilità al calore e far riemergere la tua ansia», disse la guaritrice mentre aggiungeva altre note alla cartella. «Informerò la Eriv». Hermione deglutì e si morse il labbro inferiore mentre fissava con determinazione l'orologio dall'altra parte della stanza. Malfoy non apparve quel giorno per ispezionare i suoi ricordi. Non ne fu sorpresa, l'aveva già previsto. Voldemort, ogni 2 mesi fino a quando non sarebbe rimasta incinta. Quando arrivò il giorno dopo, sembrava stanco e arrabbiato. Non disse una parola mentre le afferrava il braccio e si materializzava con lei nei tunnel tortuosi che portavano alla sala di Voldemort. La sala era ancora più calda e puzzava di carne in decomposizione. Cominciò ad avere conati di vomito non appena prese fiato. Malfoy ne sembrava immune mentre la tirava avanti e si inginocchiava trascinandola sulle pietre accanto a lui. Il pavimento era umido e appiccicoso e brillava debolmente. La stanza era quasi nera come la pece. Solo alcune lampade lontane fornivano un'illuminazione. Non c'erano altri assistenti o mangiamorte presenti che Hermione potesse vedere. «La sangue sporco, mio signore», disse Malfoy. Ci fu un lungo, lento sospiro sibilante dal trono oscurato e gli occhi scarlatti di Voldemort apparvero improvvisamente. «Portala avanti», disse dopo un momento. Malfoy la tirò in avanti e su per i gradini prima di spingerla in ginocchio. Lei lo fissò con repulsione. Il trono su cui era seduto prima non c'era più. Era invece reclinato su un enorme nido di pitoni, tutti attorcigliati insieme nella vaga forma di una sedia. Erano intrecciati sotto di lui e ondeggiavano pigramente. Voldemort inclinò la testa di lato e si passò leggermente le dita sottili sul palmo mentre studiava Hermione, pensieroso. «Non è ancora incinta», disse in tono minaccioso. «Purtroppo no, mio signore», disse Malfoy con tono di scuse. «Tuttavia, come vedrete, i guaritori della mente avevano ragione. Il solo tempo è sufficiente per iniziare a recuperare i suoi ricordi». Voldemort emise un sospiro irritato e una testa di pitone emerse dalla massa mobile di spire e si posò sul suo grembo. Accarezzò pigramente il serpente e sprofondò ulteriormente contro le spire che scorrevano sotto di lui. «Tienila», ordinò. Il ginocchio di Malfoy le si conficcò tra le scapole e le sue mani le avvolsero la mascella, tenendole la testa in posizione. Lei tremò mentre gli occhi scarlatti di Voldemort trafiggevano i suoi occhi e la sua mente. Poteva sentire le mani di Malfoy che le avvolgevano la gola e la mascella mentre lei rabbrividiva di dolore. La legimanzia di Voldemort era una lama che le lacerava la mente. Gridò tra i denti. Fu più lento. Invece di un'agonia calda e accecante, era un dolore graduale, più insidioso, del tipo che affondava nelle ossa e nei recessi della mente e si soffermava. Voldemort fece pigramente a pezzi i suoi ricordi, come un gatto che si divertiva con la sua preda. Non sapeva che una cosa del genere fosse possibile. Pezzi di cose che lui considerava insignificanti, che distruggeva solo per sentirla reagire. Il suo ricordo del piegare origami mentre i suoi genitori discutevano di misticismo orientale, la sua scoperta del Gragnano nelle stalle. Li ridusse in piccoli pezzi, come se fossero carta. Li sentì andare. Cercò di aggrapparvisi mentre svanivano, ma scivolarono via finché l'agonia nella sua mente le fece dimenticare ciò che stava cercando. Era affascinato dai suoi ricordi di Ginny. Quando si ritirò dalla sua mente, lei crollò contro Malfoy e non riuscì a vedere altro che il rosso rabbioso degli occhi di Voldemort. Poteva vedere o i suoi occhi erano semplicemente impressi a fuoco nella sua mente? Il cervello le faceva così male che quasi si aspettava di sentirlo colare dalle orecchie. Attraverso la foschia di dolore che non sarebbe svanita tanto presto, poteva sentire il suo polso battere all'impazzata contro la pressione delle dita di Malfoy. «È un peccato che tu non abbia riportato la ragazza Weasley viva», sentì dire finalmente. «Mi dispiace, mio signore. Non avevo idea della sua importanza. Come ricorderete, era quasi morta quando l'ho trovata». Ermione si agitò debolmente e mugolò, cercando di destarsi dal dolore per ascoltare attentamente. «Questo spiega l'attacco della sangue sporco nel Sussex», disse Voldemort in tono meditabondo. «Una missione suicida per liberare un'amica morente. L'ordine è sempre stato sorprendentemente prevedibile. Infatti...» Il disprezzo nella voce di Malfoy era evidente. Ci fu un lungo silenzio. La presa di Malfoy sulla sua mascella si allentò e Hermione si sentì scivolare sul pavimento. Mentre giaceva lì, una fresca e muscolosa spirale di serpente cominciò ad attorcigliarsi lentamente intorno alla sua gamba. «Sono deluso dalla tua mancanza di progressi nel trovare i responsabili dell'attacco, Hyreeve», disse Voldemort. C'era un sussurro di furia che avvolgeva le sue parole. Riusciva malapena a respirare. Il calore umido e il marcio nella stanza la stavano soffocando e le squame si impigliavano debolmente sulle sue calze mentre la spirale si stringeva intorno al suo polpaccio. Il pitone stava scivolando sotto le sue vesti. Rabbrividì e cercò di allontanare la gamba. Riusciva malapena a distinguere qualcosa nella sala buia. La sua incapacità di vedere la lasciava molto in sintonia con i suoni della sala. Sibili e il morbido brivido dei serpenti che si spostavano costantemente accanto a lei nell'oscurità. «Non vi deluderò. Se è stato l'ordine, li troverò», disse Malfoy. La sua voce era calma e risoluta. «Mortale». Hermione sentì le labbra fremere e le lacrime spuntarle negli occhi, le mani tremare mentre la rabbia tagliava il dolore. Non c'era niente che potesse fare. Malfoy avrebbe potuto dare la caccia e uccidere qualcuno nel bel mezzo della sua camera da letto se avesse voluto, e Hermione sarebbe stata a guardare. «Ti odio, Malfoy! Ti odio! Ti odio!» «È stato l'ordine. Chi altro avrebbe potuto saperlo? Quello stupido lumacorno deve averlo detto a Silente. Potter deve averlo saputo. Ecco perché si è introdotto a Hogwarts. Qualcuno è stato trascurato durante l'epurazione. Qualcuno di importante per l'ordine. Non uno dei loro fanti ignoranti. Sono certo che la sangue sporco sa chi è». Mentre Voldemort parlava, il senso di magia nera nella stanza diventava più denso, come se l'aria stessa fosse diventata una massa solida e pesante che gravava senza pietà su di lei. Poté sentire le costole piegarsi sotto la pressione e schiacciarla crudelmente contro le pietre. Ansimò mentre cercava di respirare attraverso i polmoni, che non riuscivano ad espandersi. «Forse, mio signore, sarebbe giudizioso chiamare Severus», disse Malfoy. Le sue parole suonavano forzate. Hermione non era l'unica ad essere schiacciata a morte. «No!» disse Voldemort con voce fredda. «La Romania è cruciale. Ci sarebbero domande se dovessimo chiamare Severus per un attentato a Autus. Rimarrà al suo posto. Hai capito come il medaglione sia entrato in suo possesso?» La pressione si allentò leggermente e Hermione ansimò e spinse avidamente l'aria nei polmoni. Il pitone si arrotolò più in alto sulla sua gamba. Poteva sentire le squame sfiorarle la pelle nuda sopra le calze. Un mugolio di repulsione le fu strappato dalla gola e cercò con più forza di allontanarsi. Una spirale si chiuse intorno all'altra caviglia. «Sto indagando. Ci sono delle foto del ministero del 95 in cui sembrava che lo indossasse. Sosteneva che fosse un cimelio dei Selwyn. Come sia arrivata a possederlo, nessuno lo sa. Anche se un ex segretario ha menzionato che la preside aveva l'abitudine di sequestrare i beni dei venditori ambulanti senza licenza. Quindi non sai nulla. Non come l'ordine sia riuscito a distruggerlo da una distanza impossibile. Non come siano riusciti a identificarlo. Nessuno come l'ha ottenuto. C'è qualcosa che sai». Voldemort ringhiò. Poi si calmò per un momento prima di dire con un tono più calmo e minaccioso. Mi hai deluso, Airiv. Spero che tu non abbia dimenticato cos'è successo l'ultima volta che l'hai fatto. Crucio! Sentì Malfoy cadere improvvisamente. Non era caduto prono, ma si era invece accasciato su di lei. Poteva sentire il suo corpo tremare rigidamente per la tortura, mentre un gemito profondo e gutturale gli veniva strappato dal fondo della gola. Voldemort non trattenne la maledizione per molto tempo. In poco più di un minuto si fermò. I brividi contro di lei cessarono e Hermione sentì Malfoy ansimare vicino al suo orecchio mentre si riprendeva. «Non vi deluderò, mio signore. Ho fatto esaminare la punta della freccia e i resti del medaglione da un folletto», disse Malfoy con un leggerissimo tremito nella voce mentre si rimetteva in piedi. «La spada era d'argento battuto da un folletto, infusa con una combinazione di veleno della coda di manticora e di veleno di basilisco. Il veleno di manticora ha permesso al dardo di passare attraverso le protezioni. Il veleno di basilisco di distruggere il medaglione». «Ha indagato sulle possibili fonti?» Hermione sentì il sibilo di una lingua scivolare sul suo interno coscia nudo e singhiozzò sommessamente. «Un giovane basilisco è abbastanza facile da trovare con un po' di pazienza. Per qualsiasi mago con un rospo e un talento per le maledizioni accecanti. La fonte del veleno di manticora è più discutibile, data l'attenzione con cui la maggior parte degli ingredienti è stata regolata da quando avete preso il controllo del ministero. McNair ha insistito per essere lui il responsabile delle indagini in merito, il che è stato insolitamente generoso da parte sua. Ho interrogato privatamente uno dei suoi assistenti. Sembrerebbe che ci siano state continue discrepanze nei registri riguardanti le quantità di alcune delle sue creature importate. Il mercato nero è stato abbastanza redditizio negli ultimi anni». «Mandalo a chiamare», disse Voldemort, una palese furia nel tono. «L'attacco sarebbe stato impossibile se non fosse stato per la sua disattenzione. Sembra che alcuni dei miei servitori stiano diventando troppo ambiziosi». «Come volete, mio signore», disse Malfoy, e Hermione sentì che la tirava su dal pavimento. Il pitone arrotolato intorno alle sue gambe strinse la presa e la trascinò di nuovo giù. Voldemort emise un sibilo acuto e la liberò lentamente con un suono di dissenso sibilante. Mentre Malfoy tirava Hermione fuori dalle spire, il volto di Voldemort entrò nella sua visione. Diversi serpenti si erano arrotolati intorno a lui. Era mezzo coperto dai pitoni e la fissava attentamente. «Questa sangue sporco è immersa nell'oscurità. I serpenti possono sentirne il sapore ed è piuttosto feconda», disse Voldemort pulendosi la bocca mentre la studiava. Hermione lo fissò per un momento prima che la sua visione sfarfallasse di nuovo. Poteva sentire i deboli fremiti della tortura nella presa di Malfoy. «La guaritrice Stroud le ha somministrato una pozione ieri», rispose lui. «Per quanto riguarda l'oscurità, la scia di distruzione che ha lasciato nel Sussex indicava già che non aderisse alle politiche dell'ordine riguardo alla magia nera». Voldemort emise un sibilo di assenso. «Sorvegliala attentamente. Ora che l'ordine si sta muovendo di nuovo, verranno sicuramente per lei», disse Voldemort. «Sapete che morirei prima di perdere la presa su di lei», disse Malfoy a bassa voce, e Hermione sentì il suo braccio stringersi attorno a lei. «Voglio il suo cadavere, Airiv. Chiunque sia stato quest'ultimo membro dell'ordine, voglio che il suo teschio sia aggiunto alla mia collezione». «Lo avrete, come vi ho dato tutto il resto», disse Malfoy. Hermione trasalì e cercò di liberare il braccio. Voldemort la guardava e lei poteva sentire la crudeltà e la malizia del suo sguardo mentre i suoi occhi scivolavano su di lei. Aprì la bocca e fece scivolare la lingua fuori come per assaggiare l'aria. Aveva le gengive bianche e senza denti, come quelle di un serpente, e la lingua brillava nella luce fioca. Quando chiuse la bocca, si chinò in avanti ed emise un basso sibilo. Il suo viso era a pochi centimetri da quello di Ermione. Poteva sentire il sussurro dell'aria che le attraversava il viso. Non era sicura se lui stesse per leccarla o usare di nuovo la legimanzia. Gli occhi rosso sangue la studiarono per un momento prima di sprofondare di nuovo nel nido di pitoni. Quando la sangue sporco avrà svelato tutti i suoi segreti, voglio che venga uccisa anche lei. Sa troppe cose per essere tenuta nel programma della Strout. Anche se rimanesse incinta, ti permetterò di aspettare finché non avrà il tuo erede. Come comandate, mio signore, disse Malfoy senza esitare. Poi trascinò Hermione fuori dalla sala. Una volta che furono nei passaggi tortuosi, Malfoy le somministrò una pozione antidolorifica. Hermione tossì a bassa voce prima di inghiottirla. Cercò di schiarirsi la mente, facendo fatica a vedere. Era come se l'aria della sala l'avesse avvelenata. Scivolò debolmente sul pavimento. Aveva il cervello ancora in agonia, anche con l'antidolorifico. Eppure si ritrovò a bruciare di domande. «Ho attaccato una prigione», forzò fuori. «Dopo la morte di Potter». La voce di Malfoy emerse dall'oscurità. «Poche ore dopo la battaglia finale. Sei stata catturata dopo averne rasa al suolo quasi la metà per fare irruzione. È stato un contrattacco inaspettato. Ho letto i rapporti sui danni solo dopo che sei stata assegnata a me. È un peccato che nessuno si sia preoccupato di interrogarti prima. L'eccessiva sicurezza sulla vittoria, suppongo». Hermione alzò lo sguardo in direzione della sua voce. Riuscì solo a scorgere i capelli chiari prima che la vista le sfuggisse di nuovo. Appoggiò la testa sul muro per stabilizzarsi. «Era una guaritrice», disse. «Non mi hanno permesso di combattere». Aggrottò la fronte cercando di capire. «Ma Ginny è uscita. L'ho fatto uscire io». «L'hai fatto». «Ma lei stava morendo quando tu l'hai uccisa. Perché?» chiese, la voce piccola e dolorante. Ci fu un attimo di silenzio prima che Malfoy parlasse. «Era nel Sussex per una ricerca sperimentale». Un basso suono di orrore emerse da qualche parte nel suo profondo. «La divisione di sviluppo delle maledizioni di Dolohov». Le tremò la voce e si interruppe. Scorse Malfoy che annuiva nell'ombra. Si piegò in due e vomitò. «Oh Dio, Ginny!» Malfoy aspettò che smettesse di vomitare prima di trascinarla su dal pavimento e smaterializzarsi di nuovo nella sua stanza. L'urlo che fece per il dolore della smaterializzazione fu quasi animale. Crollò contro Malfoy e scoprì di essere immersa in quelli che sembravano essere resti lucidi e putrefatti. Riuscì a vederli solo per un momento prima che la sua vista vacillasse di nuovo. Soffocò un singhiozzo e cercò alla cieca di pulirsi le mani sulla veste altrettanto sporca. Lui mormorò diversi incantesimi di pulizia e l'odore intorno a lei svanì. La spinse di nuovo sul letto. «Tre giorni», disse, e lei lo sentì vagamente andare via. Voleva rimanere cosciente. Così avrebbe potuto soffrire e cercare di elaborare ciò che aveva appreso. Ma la sua mente era sbiadita. Come se non riuscisse a raggiungere... Si tirò i vestiti finché i bottoni non si strapparono e poi li gettò sul pavimento. Si tolse le calze con le dita dei piedi e cercò di strofinare via la sensazione delle spire del serpente dalla sua pelle. Passarono due giorni prima che potesse vedere abbastanza. Il dolore della testa le impediva di tenere giù qualsiasi cibo. La stanza vacillava quando cercava di sedersi o di stare in piedi. Non aveva altro da fare che pensare. Quando Malfoy entrò il terzo giorno, lei si costrinse a sedersi e a guardarlo fisso. «Altre domande?» disse freddamente mentre la osservava. Ermione scosse la testa. Sembrava debolmente sorpreso. «Beh, una suppongo», disse dopo un momento. Malfoy aspettò. Raccolse i fili delle informazioni, tutte le incongruenze che aveva catalogato nella sua mente nel corso dei mesi. Finalmente le aveva raccolte in qualcosa di coeso. Fece un lento respiro prima di parlare, poi incontrò i suoi occhi. «La fanfara è alla luce, ma l'esecuzione è al buio». «La guerra si è fermata», disse. «Anche se è ancora ufficialmente in corso in alcune parti dell'Europa magica, non viene più trattata come significativa o conseguenziale. Infatti, basandomi sull'estensione, sospetto che ci sarà probabilmente un armistizio annunciato presto. Negli ultimi 2 anni, a parte la conquista della Gran Bretagna, non c'è stato quasi nessun progresso dalla morte di Harry». Malfoy rimase silenzioso, l'espressione accuratamente chiusa. «In effetti, non è successo quasi nulla da quando Harry è morto. L'intera campagna di Voldemort si è fermata una volta sconfitto Harry, perché...» Esitò solo leggermente. «C'era qualcosa che li collegava. Erano legati in qualche modo, probabilmente da quando lui cercò di uccidere Harry da piccolo. Ecco perché lui e Harry finivano l'uno nei sogni dell'altro a volte. E sono sicura che ti ricordi che Harry sapeva parlare il serpentese. Ecco perché quando Voldemort usò la Avada Kedavra per uccidere Harry a Hogwarts, non funzionò subito». La voce le si incrinò, ma deglutì a fatica e si costrinse a continuare. C'era un nuovo dolore che lentamente cominciava a fiorire nella parte posteriore della sua mente. Lo ignorò. «Ecco perché ha dovuto rigettare la maledizione su Harry, a causa del legame. Ma non era solo Harry. Il modo in cui era immortale, il professor Raptor, il diario che tuo padre aveva, in qualche modo il tuo signore ha capito come legare la sua fonte di vita a oggetti animati e inanimati, e l'ordine lo sapeva. Ecco perché sa che l'attacco di questo mese è stato dell'ordine e non di un nuovo gruppo della resistenza. Perché l'attentato non era un attentato. Otus non era l'obiettivo. Nemmeno la Umbridge lo era. Era il ciondolo che a volte portava. Il medaglione. L'ho visto quando ci stava addestrando. Era suo. Uno dei suoi ciondoli. Chiunque sia l'ultimo membro dell'ordine ha capito cos'era e l'ha uccisa per distruggerlo». Malfoy strinse leggermente gli occhi. Ermione inclinò la testa di lato mentre si studiavano a vicenda. «Credo di essermi perso la domanda», disse dopo un momento. «Non l'ho ancora fatta», disse lei con calma, cercando di ignorare la pulsazione nella parte posteriore della testa che cresceva costantemente come se ci fosse un bisturi conficcato alla base del suo cranio. «Il programma di ripopolamento», disse, cercando di respirare attraverso il dolore. «È una copertura, è uno stratagemma. A Voldemort non interessa la popolazione magica. È un'opera di depistaggio per tenere il pubblico preoccupato. Non sta aspettando di schiavizzare Babbani perché è preoccupato della demografia dei maghi. Lo sta facendo per guadagnare tempo. Sta intrattenendo le masse con gli spettacoli pubblici delle famiglie puro sangue. Prima con i matrimoni e gli aborti, e ora con le surrogate. Non ha fermato la guerra perché vuole. L'ha fatto perché deve farlo». Il dolore la attraversò e la stanza davanti a lei divenne di un'orribile tonalità di rosso, come se il sangue le stesse scendendo negli occhi e riempiendo la vista. Emise un grido agonizzante e cominciò a cadere in avanti. Si costrinse ad alzare lo sguardo verso Malfoy. Lui si stava muovendo verso di lei. Forzò fuori la sua domanda. «Sta morendo, non è vero?»